Baggio all'inizio del Novecento era un territorio abitato prevalentemente da operai, contadini e braccianti. La miseria era una condizione comune alla maggior parte della popolazione, che ben presto si organizzò per rivendicare i diritti e la dignità dei lavoratori. Le persecuzioni contro il movimento operaio e contadino baggese iniziarono ben prima della presa del potere da parte di Mussolini. Carabinieri e fascisti operavano congiuntamente. Le istituzioni coprivano le violenze delle squadracce fasciste. I carabinieri li proteggevano e arrestavano i rossi. Su tutto il territorio nazionale si passò dai 250 morti e migliaia di feriti dei primi mesi del 1921 a una escalation di violenza che culminerà nell'ottobre del 1922 con la marcia su Roma. Scontri tra fascisti e antifascisti ci furono anche a Baggio. Merlini, che abitava in via Quinto Romano, era antifascista da sempre. Aveva circa 50 anni e, poiché era robusto, i fascisti non osavano affrontarlo e provocarlo a viso aperto. Una sera, mentre rincasava, gli tesero un agguato, approfittando del fatto che la via non era illuminata. Stesero una corda e quando Merlini vi inciampò e cadde a terra, i fascisti gli saltarono addosso e lo bastonarono bestialmente, riducendolo in fin di vita. Ad avvenuta liberazione sapemmo che Merlini era morto per le ferite riportate, ma allora, sotto il fascismo, il referto del medico condotto, dottor Valdonio, che appunto denunciava la morte in seguito alle percosse, non poté essere impugnato per l'impossibilità di una deposizione, dato che questo avrebbe significato minacce e bastonature. Tra i vari episodi, vale la pena ricordare quello di Maraschi, un giovane capolega dei lavoratori, che una sera in via Cusago fu aggredito. Era insieme al padre, che morì poco dopo in seguito alle gravi lesioni riportate. La prima sede del Partito Nazionale Fascista di Baggio era in via Pistoia 21, in una palazzina che apparteneva alla famiglia Beretta, costruttori e proprietari terrieri. Quando prendevano un antifascista, anche prima della guerra, prima che scoppiasse la guerra, si mettevano in fila di dentro in questo portico tutti i fascisti, lo facevano passare e lo picchiavano. Man mano che passava veniva picchiato. Il più perseguitato era Angelo Corti, ex segretario del Partito Comunista, racconta la sorella. Quando l'hanno portato alla sede del fascio, è passato dal portone e ai due lati era pieno di fascisti e mentre lui passava tutti lo picchiavano con i manganelli. Quando è tornato a casa ha cominciato a fare le pratiche per andare esule in Francia. Poi è tornato e abitava in via Roane e lì ogni momento i fascisti buttavano tutto per aria in cerca di propaganda. Per passare la propaganda alle persone con cui era in contatto, la metteva sotto le verze negli orti, ma la moglie di uno ha fatto la spia e l'hanno di nuovo massacrato di botte. Una volta hanno tentato anche di bruciargli la casa. Le informazioni sono tratte dal lavoro di Giuliana Cislaghi, Baggio antifascista.